papà. Era un bambino che credeva alle fate. A Babbo Natale, al bene e dal male. Era un bambino che giocava contento nei giardini, nel sole, nel vento. Inseguivo con gli occhi il volo di un cormorano, nella mia fantasia era un aeroplano. Fino a quando i miei sogni sono stati a colori, non volevo nient'altro, non avevo pensieri. Addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà. Due occhi azzurri e poi l'amore va in fretta. Un appuntamento, c'è lei che ti aspetta. Due occhi azzurri e poi che cosa succede? Facciamo un bambino, mi chiede. Addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà. Oggi sembra più bella, è vestita da sposa, nella mia fantasia assomiglia a una rosa. Assomiglia davvero una rosa così. Non vorrei più partire, ma non voglio restare. Io mi sento morire, ma non posso aspettare. Addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà, addio mamma, addio papà.